Per far capire a tutta quanta la nazione che cos'è il rap, che cos'è la cultura hip hop e cosa rappresenta il freestyle al giorno d'oggi. Yo, yo. Bene bene, ascoltate il nostro professional sound. Metto le scarpe migliori per giocare nel playground. Indosso i miei vestiti larghi per ballare strada, mentre l'hip hop esce dal ghetto e mentre cambia la moda. L'old school lascia la via libera alla scuola nuova. Adesso i nostri vestiti larghi vanno anche di moda. I largoni sempre più larghi, il mondo sempre più piccolo. Yo, la vecchia cultura dal ghetto adesso esce fuori dal vicolo. Lo street è diventato il modo di esprimersi di tantissimi. Ormai quelli che vivono AC sono divenuti pochissimi. Il freestyle si è arricchito con lo skate e con il basket. Adesso pro in TV fanno le sfide di break. Dance. Sapere, teggare, schiacciare, screcciare, giocare, disegnare, insultare, repare, precare. Lo chiamo street culture, ma mancano le strutture. In Italia ci manca anche un idolo da seguire. I suoni dette gli sport che vengono dalla strada. Le sfide, i valori e i codici della strada. Nel playground prendi la palla e la porti a canestro. Mentre rampa fai un trick e non vuoi fare la fine del fesso. Ti chiudi in camera e provi testi per giorni interi, senza alzare mai la testa dai tuoi quaderni pieni. Tieni zeppi di metafore, rime scritte al contrario. Una sfida contro te stesso prima che contro il tuo avversario. Poi arriva il giorno fatidico, il momento di confrontarti. Se sei te stesso, allora non fai la fine degli altri. One, two, yo, yo. Freestyle, l'altro lato della strada. Freestyle, l'altra faccia della medaglia. Freestyle, più peggio di una strada. Freestyle, la luce che ti abbaglia. Freestyle, l'altro lato della strada. Freestyle, l'altra faccia della medaglia. Freestyle, si svolge tutto per strada, è una scelta infinita e varia. Nella città, nei luoghi rave o nella business area. Ormai lo street style sta diventando una cosa per tutti. Gente farsa, alti passi belli e brutti. Come fa lo street ad essere incredibilmente cheap? E come fa il free ad essere assolutamente hip? Per le strade non importa se sei tu il più coatto. Né che ti comanda solo che picchia duro come un matto. Dalle nostre parti vige l'individualismo estremo. Ormai non c'è più gioco di squadra, il mondo è diventato sceno. Non c'è quando sei in rampa, non c'è quando sei ai piatti. Breaker che sceglie il pubblico solo con due salti. DJ che scioccano soltanto io con due piatti. Gente che non guarda domani ma solo ai loro cazzi. Perché ormai strada non ha importanza più chi sei, ma importanza quanto vali sei come persona che come DJ. Yo, freestyle, l'altro lato della strada. Freestyle, l'altra faccia della medaglia. Freestyle, più peggio di una serata. Freestyle, la luce che ti abbaglia. Freestyle, l'altro lato della strada. Freestyle, l'altra faccia della medaglia. Freestyle, più peggio di una serata. Freestyle, la luce che ti abbaglia. Yo, yo, Fog, MC, se questa è la legge della giungla, baby. Freestyle, se freestyle, on the streets, 1, 2, 1, 2,